Innanzitutto noi abbiamo già espresso un parere fortemente negativo su questo decreto legge che adesso è in conversione al Senato. Come abbiamo già avuto modo di dire, non affronta nessuno dei problemi che la strage di Cutro ha posto, in particolare non affronta né il tema della ricerca e salvataggio, che in questo caso specifico forse il governo doveva avere la decenza perlomeno di sollevare, di un programma, noi pensiamo, europeo di ricerca e salvataggio, di cui c'è bisogno per evitare che l'Europa, l'Italia, continui ad assistere alle stragi piangendo lacrime di coccodrillo ma senza fare nulla. E la seconda questione su cui bisognava intervenire, il governo non è intervenuto, è tutto quello di consentire alle persone in cerca di protezione, che sono più di 100 milioni al mondo e che arrivano in Europa veramente in numero esiguo rispetto al resto delle aree del mondo, del pianeta, che queste persone possano attraversare le frontiere in sicurezza e legalità, per esempio ricorrendo ai visti umanitari previsti dal regolamento visti dell'Unione Europea. Invece su questi due argomenti, che probabilmente sono gli argomenti principali che bisogna affrontare proprio dopo quella strage, il governo non è intervenuto. È intervenuto invece per esacerbare questa campagna di criminalizzazione contro l'immigrazione, contro chi si occupa dei diritti degli stranieri in Italia, per indicare facili capri espiatori, per esempio i cosiddetti scafisti, che noi sappiamo essere in realtà quasi sempre delle vittime dei trafficanti, cioè persone che sono obbligate a guidare le barche e che a loro volta pagano. Le stesse tre persone che in questo momento sono in carcere accusate di essere scafisti della barca che si è arenata, affondata diciamo a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, hanno dichiarato di aver pagato viaggio e probabilmente verrà fuori che loro, appunto, come centinaia di altri casi, sono solo le vittime. Invece il governo ha inasprito ulteriormente le pene, che erano già state pochi anni fa inasprite in un altro provvedimento dello stesso tipo, e non servono a niente. Tra l'altro, aumentare le pene serve solo a indicare il colpevole, non a risolvere alcun problema. E poi il governo con questo decreto interviene in maniera del tutto inutile e dannosa su alcuni argomenti come appunto il decreto flussi, il CPR, senza mettere in campo soluzioni praticabili e giuste. C'è anche la questione della protezione umanitaria che vuole essere tolta, ma più in generale ti voglio chiedere che effetti produce una gestione in stato di emergenza del fenomeno migratorio, che invece sappiamo essere strutturale. Anche questa dichiarazione di emergenza è veramente fumo, un modo per distrarre l'attenzione dalla incapacità del governo di affrontare questo problema. La legge obbliga il governo a fare la programmazione del sistema d'accoglienza, un programma per l'accoglienza ogni anno, il decreto legislativo 142 del 2015, e peraltro è previsto, non si convoca ormai da tanto tempo, l'ultima volta l'abbiamo chiesto noi come tavola di immigrazione al ministro Lamorgese, il tavolo di coordinamento nazionale dove siedono tutti i ministeri competenti, le regioni, l'ANCI, le organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite e anche noi, le associazioni, e quella sarebbe la sede dove discutere appunto e poi implementare un piano nazionale per l'accoglienza. Invece il governo non vuole programmare, continua questa pervicacia nel non voler programmare e quindi di affrontare inventando di fatto l'emergenza. In questo caso il governo ha voluto proprio dichiarare lo stato di emergenza, creare un polverone su numeri che sono assolutamente paragonabili a se non inferiori a numeri che noi abbiamo avuto per esempio nel quadriennio dal 2014 al 2017, quando sono arrivate in Italia sulle nostre coste più di 600.000 persone, sono state presentate 400.000 domande d'asilo in 4 anni e abbiamo avuto fino a 194.000, se non sbaglio, presenze nel sistema d'accoglienza. Quindi diciamo che non c'è nessuna emergenza, l'emergenza è inventata per sollevare un polverone e per non ammettere di non saper fare il proprio mestiere.